perché il calcio, non neghiamoci, è uno sport anche di impatto fisico, provano stiramenti, contratture, e spesso soprattutto associate anche a una mancata preparazione fisica, spesso ci si improvvisa, passiamo direttamente dalla scrivania alla spiaggia così in poche ore e poi ne paghiamo anche le conseguenze. Spesso questi incidenti sono a carico degli arti inferiori. Allora, dottor Gevi, lei che cosa come ci può aiutare? Come può aiutare gli scapoli e gli ammogliati a non infortunarsi? Ma innanzitutto io farei sempre una premessa, tenendo presente che la carta d'identità non è conta. Una brochure così da sfogliare con poca attenzione, ma contiene dei dati molto importanti da tenere sempre in presente, in modo tale che quando si va in vacanza si ha ben presente questa piccola premessa anagrafica. Che ci sono le primavere, ecco. Ci sono le primavere, anche se siamo in estate, però indubbiamente, e anche se effettivamente, come giustamente segnalava il dottor Giustini, c'è un incremento della pratica dell'attività fisica, direi che questo qui sicuramente porta a del benessere, però alcune così punti fermi devono essere comunque osservati e paradossalmente in una stagione comunque dove le temperature sono elevate, per esempio il discorso del riscaldamento, cioè mai fare come non ci deve essere il brusco passaggio dalla scrivania al campo di pallone piuttosto che di pallavolo, alla piscina, a bordo piscina, eccetera, ci deve essere sempre una certa gradualità, per cui il riscaldamento è assolutamente un aspetto da non sottovalutare, anzi. E poi dopo di conseguenza, una volta che questa è stata attuata come piccola osservazione iniziale, tenere presente che c'è anche una gradualità nell'impegno, per cui il soggiorno può essere della settimana, dei 15 giorni, del mese, cioè magari programmarlo l'impegno sportivo, cioè a dire insomma non facciamo i fenomeni, che dice? Non fate i fenomeni voi, perché quando giocate a calcio vi sentite davvero ragazzini. E in linea con noi un nostro amico, un amico della trasmissione di Essere Benessere, è un grande professionista, ma è anche un centrocampista della Nazionale Cantanti. Abbiamo in linea con noi Paolo Belli. Faccio tutto, tutto fatto, faccio festa. Voglio essere un animale, respirare senza pudore. Paolo, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. No, abbiamo... hai sbagliato, io non sono il centrocampista nazionale, io sono la palla della Nazionale Cantante. Dai. Senti, noi siamo partiti con Faccio Festa, sigla del 94esimo Giro d'Italia, ma tu sei più un amante del calcio, vero? Guarda, ce l'hai nel sangue. Allora, dal punto di vista della passione, io sono più appassionato di ciclismo. Mm. Per me è lo sport più bello del mondo, però è proprio la classica passione da divano, sì. Nel senso che io ritengo di essere un grandissimo direttore sportivo, potrei benissimo, nella mia naturalmente follia, ritengo di essere uno che potrebbe tranquillamente fare il commissario, il direttore di una squadra di ciclismo, sì. Però ho sempre giocato a calcio fino a qualche tempo fa, ma da qualche anno a questa parte gioco solo a tennis, perché proprio io sto allo sport come Bob Marley stava al valzer. Sì, Paolo. Senti Paolo, però io oggi ti voglio dare un ruolo, un po' quello di mister, no? Per i nostri ascoltatori che in vacanza si allacceranno le scarpette per scendere in campo, quindi io vorrei che tu dessi una raccomandazione per gli scapoli, una per gli ammogliati o una che vada bene per tutte e due. Ma

grazie. Grazie Massimo, in bocca al lupo. Dottor Gevi, sono il sovrappeso e l'attività sportiva? È un po' l'insieme, però direi, come diceva il dottor Turetta, non bisogna trascurare quelle che sono delle situazioni strutturali nostre proprie del fisico, per cui a volte magari migliorando la nostra struttura senza arrivare all'intervento, oppure dopo effettuato l'intervento risolutivo, l'intervento chirurgico o altro, si possono mettere in atto una serie di provvedimenti, magari migliorando gli appoggi, per cui nella scelta della calzatura, personalizzando l'appoggio con delle ortesi plantari, per cui proprio con delle solette estremamente personalizzate da infilare nelle calzature che vengono utilizzate, proprio per magari anche ammortizzare meglio i microtraumi che si possono subire a seconda delle superfici con le quali si va a impattare, per cui si passa magari dal campo, pensavo a Belli che giocava a tennis magari in inverno sulle superfici sintetiche, poi sulla terra battuta. Quindi, per cui effettivamente anche il tipo di sollecitazione che si va a subire sulle articolazioni può essere anche modulata magari con qualche piccolo accorgimento personalizzato. Dottor Turetta, se nonostante tutte queste attenzioni ci scappa un piccolo infortunio, il crampo, la distorsione, la classica botta, tre rimedi per queste situazioni che sono le più frequenti, inizierei dal crampo, che cosa possiamo fare? Il campo è sicuramente una delle cose più frequenti che capita. Sto pensando prima a quello che diceva il collega delle persone che prendono il sole magari e si buttano in acqua, e c'è questa grossa differenza di temperatura, e nello stesso tempo hanno sudato, per cui sto pensando a una diminuzione dell'idratazione. Certo. E sto pensando anche all'entrare di colpo, a passare da una situazione atmosferica di calore a una situazione come è l'acqua, magari fredda, e si crea questa improvvisa variazione di temperatura, per questo pensando intanto all'idratazione. Il crampo nasce sempre come un problema microcircolatorio. Che cosa possiamo fare? Perché abbiamo pochi minuti, ma vorrei dare tre soluzioni per... Direi chi soprattutto soffre spesso di crampi, io consiglio sempre di usare un'erba che ha del miracoloso proprio per migliorare la circolazione alla parte muscolare, che è l'ippocastano. Sì. L'ippocastano si può prendere sia in tisana, però la cosa più facile da usare è la tintura madre. Se fate attività sportiva, magari fate una base di tintura madre di ipocattano, 20 gocce, tre volte al giorno prima dei tre pasti. E siamo a posto. Tantissimo. L'altra cosa è chi magari ha facilità ad avere contusioni, perché magari fa uno sport violento, vi dicevo, di avere sotto mano arnica 200 CH tubodose, che è il migliore rimedio omeopatico per tutti i traumatismi, così la pomata all'arnica, le pomate all'arnica è sempre la pomata più che il gel, perché la pomata arriva più in profondità, e la pomata all'arnica è sicuramente la cosa migliore anche per le distorsioni, piuttosto anche per anche gli stiramenti o gli strappi, anche se c'è una grossa differenza tra i due. Prima di chiudere, per chi fa sport oppure per chi è sedentario, consigli e istruzioni per l'uso delle lenti a contatto. Regola numero 1, rispettate l'igiene. Regola numero 2, rispettare i tempi di utilizzo. Nulla di nuovo, penserete voi, ma in vacanza si prendono le cose forse con un po' troppa leggerezza. Allora facciamo un breve ripasso col professor Silvio Maffioletti, ottico, optometrista e coordinatore del progetto di ricerca sulla visione e la sicurezza stradale del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vogliamo fare un rapido ripasso. Seguiamo il nostro portatore di lenti ideale, il nostro amico, insomma, dal mattino quando si sveglia alla sera. E immaginiamolo in vacanza al mare. Al mare, come tutti, si è portati a mettere le lenti a contatto più tempo, tenerle anche di più, stare più all'aria aperta, e quindi il nostro portatore al mattino si sveglia, mette le lenti a contatto dopo averle tolte dal contenitore e averle applicate alla cornea. A questo punto è in condizioni di portare le lenti a contatto opportunamente per tutta la giornata, quindi può uscire, può fare sport, può andare in spiaggia, può andare in montagna con le sue lenti a contatto, stando però cauto e portandosi un contenitore, perché nel corso della giornata può accadere di avere fastidi, di avere qualche complicanza e di essere in condizione di doverle togliere, e quindi avrà il contenitore con la soluzione fresca nell'eventualità che le debba togliere. E anche gli occhiali, perché se toglie le lenti... Avrà degli occhiali di riserva, di scorta. Vogliamo fare una differenza, un distinguo tra morbide e rigide? La lente a contatto rigida è la prima lente che era stata inventata ed applicata, ed è una lente che viene portata per tutto il giorno, ha una sua struttura, infatti è detta rigida o oggi semirigida, RGP, rigida gas permeabile, proprio perché ha una forma e la mantiene, non muta la propria forma. Questo la porta a essere un po' più fastidiosa nell'occhio, ma porta poi nel tempo a un'abitudine che consente di portare lenti più piccole di diametro e più rispettose della fisiologia oculare. Chi porta lenti rigide in città è in condizione ideale, se però va in vacanza e fa sport, si muove, va in bicicletta, corre, salta, e la lente rigida è più a rischio, nel senso che si può spostare e può addirittura essere persa. Mentre in questi casi è più opportuno avere delle lenti alternative, morbide, di tipo monouso, usa e getta, e usarle in maniera di poter fare sport, fare attività, eventualmente anche immergersi in acqua, senza il rischio di dover o perdere le lenti a contatto o vedere che si spostano. Signor Mafioletti, vogliamo anche parlare dei problemi che possono dare le lenti a contatto? Un tempo si diceva, porta le lenti a contatto al mattino, togliele in pausa, fai un'ora, un'ora e mezza, due ore di pausa e rimettile al pomeriggio, perché erano materiali, i materiali delle lenti morbide di 15-20 anni fa, che permettevano un basso passaggio di ossigeno attraverso la lente, quindi l'occhio andava, per così dire, messo in condizione di recuperare l'ossigeno che non poteva avere. Oggi possiamo portarle da mattina a sera, se siamo controllati da un tecnico, da un ottico ottometrista, e se abbiamo fatto tutta la fase preliminare opportuna, e possiamo toglierle la sera senza avere il problema o l'assillo di dovere a tutti i costi trovare una pausa durante la giornata. Questo quando però abbiamo fatto tutto un percorso in cui è stato l'ottico optometrista a dirci sì, va bene, tu puoi portarle da mattina a sera. Allora, l'igiene è molto importante, ma a volte trascuriamo quelli che a noi sembrano dettagli e possiamo pagarla cara. Allora, facciamo un breve ripasso. Il tipico errore è quello di riutilizzare la soluzione conservante, cioè un disinfettante entro cui noi immergiamo le lenti a contatto la sera o nelle pause, e che è una soluzione che toglie i microorganismi, che uccide i microorganismi. Ecco, però ogni volta va rimpiazzata, quindi ogni volta che rimetto le lenti a contatto, butto la soluzione vecchia e poi la rimpiazzerò con una nuova soluzione. Ecco, l'errore più frequente è quello di riciclare, per così dire, la soluzione disinfettante. Un altro è quello di non sostituire il contenitore, per cui abbiamo queste persone che pure sostituiscono la soluzione ogni giorno, ogni volta che le tolgono, però hanno dei contenitori vecchi di mesi che diventano proprio ricettacolo di microorganismi, mentre il contenitore va sostituito mensilmente e settimanalmente va spazzolato con uno spazzolino da denti e con un detergente per fare in modo che mantenga sempre la sua integrità e la sua pulizia. E poi un altro grosso tipo di errore è quello di non sostituire le lenti a contatto al tempo debito, quindi quando sono lenti a contatto sostituzione giornaliera usarle due giorni, quando sono lenti a contatto a sostituzione mensile farle durare qualche giorno in più, e questo porta a esporsi a dei rischi di complicanze maggiori. Signor Mafioletti, io la ringrazio per essere stato con noi, per essere stato così chiaro. Lei, Nicoletta, porta le lenti a contatto? No, io ci vedo bene, per fortuna, e non le porto. Mi piacerebbe portare le lenti a contatto colorate per cambiare bello, magari una sera il colore degli occhi, ma penso di fare pasticci, non saprei indossare le lenti a contatto, quindi rimango con i miei occhi marroni verdini. Signor Mafioletti, grazie, la ringrazio, buona giornata. Grazie a voi, buone vacanze. Grazie. Grazie a voi per oggi è tutto. Ricordatevi di seguirci su Facebook, Twitter, di scaricare le puntate. Per oggi è tutto. Buonissima giornata da Nicoletta.